Il numero 7. Siamo giunte al settimo ed ultimo passo di questo percorso e siamo al cospetto della verità e dell'eternità, l'ultimo gradino che ci porta all'illuminazione. Siamo nel chakra della corona, dove acquisiamo la consapevolezza di essere nell'unità e ci allontaniamo dagli attaccamenti materiali, accettando la divinità dentro di noi. Nei tarocchi, il carro è la lamina del successo, dell'azione del mondo, della direzione e del viaggio dello spirito nella materia. Se guardiamo alle virtù e ai peccati capitali della dottrina cristiana come archetipi al di là del precetto religioso patriarcale, l'ultima virtù teologale, tanto cara a tutte e quattro le mistiche, è la carità, il prendersi cura nell'amore incondizionato. Nei peccati capitali la superbia ci mette sul piedistallo e ci chiede costantemente conferme e attenzione dall'esterno. L'ultima domanda che poniamo alle quattro mistiche è: come possiamo raggiungere la consapevolezza? Se i primi sei nomi di Yahweh trovano un riscontro nella tradizione biblica, il settimo fa eccezione. L'inferno inghiotte tutto e corrompe irrimediabilmente l'anima e la mente, lasciando gli amanti vagare nelle tempeste della Minne, la signora Amore. Yahweh mostra tutta la sua eloquenza dialettica, descrivendo i tormenti e i piaceri che si è disposti a vivere per arrivare alla conoscenza divina, perché è nelle profondità di un cuore fedele che si trovano i doni d'amore. Il percorso per lei si svolge in discesa verso l'interno di noi stesse, in cui tocchiamo l'abisso e scopriamo il nulla. Scrive, infatti, agli estranei ciò è ignoto. Più alta è la sala che cercano, più profondo turbina l'abisso. L'abisso in cui mi getta, amore, è più profondo del mare, perché il suo nuovo profondo abisso rinnova le mie ferite. Il settimo modo di amare Dio è una sublimazione del modo precedente che porta all'anima alla beatitudine. Qui, Beatrice, cambia registro. La prosa diventa rimata, la descrizione più dettagliata, c'è una maggiore attenzione al linguaggio e ai riferimenti alle scritture. Come per Yahweh, torna la bramosia forsennata e la ricerca di ardore e godimento in un'unione sul limite tra vita e morte, ma che allo stesso tempo trascende entrambe. Questo è il modo più alto d'amare. L'anima viene elevata al di sopra del tempo e della percezione umana, la cui natura diventa un crudele esilio dai piaceri dello sposo. Scrive Beatrice: nulla di ciò che appartiene al mondo può arrecare soddisfazione o appagamento, e si preferisce la morte pur di essere con lo sposo divino in quella che definisce l'eternità dell'estasi gloriosa. Come abbiamo visto in precedenza, questo tormento viene sperimentato da tutte e quattro le mistiche in passaggi diversi, come per esempio, scrive Yahweh, mi è aspro ogni cosa su cui poso lo sguardo. Vivere così mi fa orrore. Inappagata e insoddisfatta dall'assenza dell'amato, quest'anima si dedica all'essenza sublime e si impegna a sopportare questo esilio di privazione, in attesa di unirsi nuovamente al suo sposo. Tutto ciò che è dualità è sofferenza e soltanto la fiducia e il desiderio della Minne, la signora Amore, può rendere indissolubile questa unione. Anche Marguerite parla dell'abisso e delle sue profondità come di un luogo in cui l'anima approda e trova la divinità dentro di sé, scrivendo: quest'anima è dunque assisa al fondo del profondo, là dove non c'è fondo, e per questo è profondo. E questo profondo le fa vedere molto chiaramente il vero sole della sublime bontà. Quest'anima è caduta dall'amore nel nulla, senza il quale nulla non può essere tutto. Questa caduta è caduta così profonda, se l'anima è caduta bene, che essa non può più risollevarsi da un tale abisso. Del resto non lo deve fare. Anzi, in esso deve dimorare. In quello che apparentemente sembra una discordanza con Yahweh, Marguerite pone il settimo stato di grazia nella beatitudine e nella glorificazione del paradiso, in cui si ha la piena fruizione della grazia divina. Il paradiso, però, non è affatto un luogo, ma è vedere Dio con i suoi stessi occhi e la totale comprensione della verità e della bontà divina, perché si è diventate tale verità e bontà. Perciò non c'è contraddizione, perché l'idea stessa di inferno e paradiso viene trascesa. Questa Questo stato è raggiungibile pienamente solo quando l'anima lascia il corpo, perciò questo stato viene trattato brevemente. Ma la chiave di tutto il pensiero di Marguerite sta proprio in questo concetto. L'essenza, quella condizione in cui si annulla l'alterità e si diventa puro amore. Io sono Dio, dice amore, perché amore è Dio e Dio è amore. E quest'anima è Dio per condizione d'amore e io sono Dio per natura divina e quest'anima lo è per diritto d'amore. Cosicché questa preziosa amica mia è istruita e condotta a me senza di lei, poiché è trasformata in me e a questo, dice amore, porta alla fine la mia educazione. Per Teresa de Avila, tra la sesta e la settima stanza non ci sono porte, ma la stanza del re. È quella da cui si irradia la luce che illumina il castello, perciò la sua forza è maggiore. Nelle settime mansioni avviene il matrimonio con lo sposo celeste, l'unione tanto attesa con la divinità. Esso genera la liberazione da qualsiasi timore e l'avanzamento nella perfezione, riassunti dalla famosa preghiera del Nada te turbe, arrangiata in musica con la sublime voce di Juni Russo, a cui la scuola delle donne ha dedicato un approfondimento. Trovate il link in descrizione. I doni e le grazie che lo sposo porta fortificano l'anima e annullano le debolezze. Attraverso visioni vivide e ancora più forti si comprende il concetto di umanità sacra e di trinità che dimora nell'intimità dell'anima. Tutto è puro spirito, ossia unità di corpo e anima in Dio. In queste stanze l'anima è talmente trasformata che non si riconosce più. Ma poco le importa, così come non si cura dei poteri e delle forze che vengono zittiti, sparisce anche il timore della morte perché tutto è volontà divina, anelando a uno stato di pace e silenzio in cui stare in unione con lo sposo. Advej esprime bene questa sensazione. L'unità della nuda verità che annulla ogni ragione mi tiene in una libera vacanza e mi conforma alla semplicità dell'eternità, dell'essenza eterna. Queste sensazioni però sono molto lontane dall'ozio, perché oltre alla preghiera e alla contemplazione, Teresa ricorda di agire e di esercitarsi per accrescere le virtù. Ogni atto d'amore suscita gioia, perché diventa un modo per ringraziare lo sposo del dono della vita visto come suo volere. Nel Castello dell'Anima, Edith Stein sottolinea che il matrimonio celeste consiste nella capacità di rimanere in costante relazione intima con il divino e allo stesso tempo servirlo nel mondo fisico, operando nel distacco e nell'oblio di sé, in un costante e armonioso dialogo tra interno ed esterno. Come sostiene Marguerite, anche nel film dedicato alla vita di Edith Stein, La settima stanza, si suggerisce che Edith raggiunse l'ultima dimora nel momento in cui lasciò il corpo, entrando nella camera a gas. Il nostro sentiero ha raggiunto il suo culmine, nel fondo dell'abisso e nell'unione con il tutto dentro noi stesse, che ci ha permesso di essere pura essenza. Nudità, semplicità e umiltà sono le qualità dell'anima nobile che, senza alcuna paura ed esitazione, sa di essere il tutto e allo stesso tempo il nulla, senza alcuna contraddizione. Essere significa totale presenza nel qui e ora. Agire nel mondo nella consapevolezza di essere il mondo stesso. All'ultima domanda, le nostre guide ci spiegano che la consapevolezza è un percorso in cui si arriva a comprendere che l'unica verità a cui possiamo mirare è l'amore. Ogni consapevolezza è racchiusa in questa forza di cui parla l'anima nello specchio delle anime semplici. Questo è l'amore segreto che è oltre la pace. Là è ancorato il mio amore, senza di me. La sua bontà forma per me questa forza d'attrazione e mi dà continuamente nuovo amore. Ma di quel che egli è, da sé, in me e per me, e su cui io pongo domande soltanto per la forza d'attrazione della sua pura natura, senza chiedere per mezzo mio, di questo non posso sapere niente, dice quest'anima. Non lo sanno neppure tutte quelle che sono nella gloria. Ma solo colui che è uno nella divinità e trino nelle persone. Conclusione. L'incontro con queste quattro antenate ha rivoluzionato il mio modo di concepire ciò che mi circonda. Sebbene consapevole dell'amore come motore del mondo, Advaith, maestra severa e appassionata, mi ha guidata alla scoperta dell'imprevedibilità, dell'immediatezza e della gratuità della sua manifestazione e mi ha spronata a vivere queste sensazioni non solo a livello teorico, ma a farne esperienza diretta, riconoscendo la bellezza e la perfezione dentro e fuori di me. Beatrice mi ha mostrata la sua sagacia e la sua compassione. Il suo esempio è quello di affinare l'intelligenza e la raffinatezza nell'umiltà, al di là delle dinamiche di superiorità che nutrono l'importanza personale. Marguerite è stata somma guida di coerenza ed eccellenza. La sua infinita saggezza, la sua audace integrità e la sua sconfinata visione senza tempo hanno trasformato profondamente la concezione che avevo di me stessa e della spiritualità. Teresa è stata maestra di coraggio e di equilibrio. Davanti alla statua del Bernini, nella chiesa di Santa Maria della Vittoria a Roma, ho compreso la forza del sapersi mostrare vulnerabile e la libertà che scaturisce dal togliersi ogni maschera, oltre la vergogna e l'inadeguatezza, nude e vere davanti a noi stesse e al mondo. Infine, non posso non citare Romana Guarnieri, la studiosa di mistica medievale che ha tradotto in italiano buona parte dei testi di Advaith e che ha identificato in Marguerite Porete l'autrice dello Specchio delle Anime Semplici. Leggendo le sue parole, mi accorgo di come il suo approccio tra l'accademico e l'epistolare sia profondamente collegato al metodo della scuola delle donne e alla volontà di far emergere con intensità la straordinaria esperienza che queste donne hanno vissuto. Un po' come la scuola delle donne, la scuola dell'alto amore di Advaith, così come la via dell'amore di Beatrice, sono aperte a chiunque voglia imparare dalla Minne, la signora amore, senza la necessità di intermediari, perché è già tutto dentro di noi. Concludo prendendo in prestito le parole sagge e visionarie di Advaith. Mai nulla è perduto di ciò che si è fatto per amore. Amore ripaga sempre. Presto o tardi. Amore è sempre la ricompensa dell'amore. Amore, amando, riconosce il costume dell'amore. Il suo prendere è sempre un dare. Amore, con le sue astuzie, dona molte morti nella vita. Fine.